nostro dolore. Consoli l'uomo lungo il suo viaggio, gli parli al cuore, gli infondi coraggio per continuare ancora la strada sua. Perché si è perso in un mare scuro, senza fondo, senza poesia, con l'anima che ha un peso duro, non riesce più a volare via. Si chiede ancora dov'è la porta per uscire al vento, sfuggire infine all'agonia dentro, dentro, dentro, dentro. Si espande.